Facciamo il punto sull'Anfiteatro Romano di Catania. Sotto il centro storico della città, proprio lì, in piazza Stesicoro, si nasconde uno dei più grandi anfiteatri dell'Impero Romano. E pensate, è un colosso che per la maggior parte è ancora sepolto. Allora, primo punto, la sua storia. È un ciclo incredibile di grandezza e poi di abbandono. Fu costruito nel II secolo e per dimensioni era secondo solo al Colosseo. E allora, che fine ha fatto tutta questa maestosità? Beh, dopo la caduta dell'impero è stato di fatto smontato pezzo per pezzo. Le sue pietre e le colonne di marmo sono state riutilizzate per costruire monumenti simbolo di Catania, come la cattedrale e il castello Ursino. Secondo, le dimensioni e i materiali. Erano davvero impressionanti. Poteva ospitare circa 15.000 spettatori, cioè più di molti stadi moderni. E provate a immaginare il colpo d'occhio. La struttura era fatta con la scura pietra lavica dell'Etna, ma in origine era tutta rivestita di marmo. Un contrasto cromatico pazzesco tra il nero della roccia e il bianco delle decorazioni. E infine la sua riscoperta, che è una storia, diciamo, incompleta e anche precaria. Vedete, l'anfiteatro fu sepolto completamente dopo il devastante terremoto del 1693. Solo agli inizi del Novecento una piccola parte è stata riportata alla luce e oggi la porzione che vediamo è appena un decimo dell'intera struttura. Una struttura che continua a vivere sotto le strade e palazzi, affrontando seri problemi di conservazione. Insomma, per farla breve, l'anfiteatro è un gigante dimenticato che respira, letteralmente, sotto le fondamenta della Catania di oggi.